sembra impossibile alletta. Perché se accade diventa vendetta contro chi crede che vivere sia vivere dentro una scatoletta. Non cattiveria, neppure follia. Prender coscienza che esiste una via. Va solo preso in considerazione il proprio istinto, la propria vocazione. Hey, hey. Oh yeah. Ha smesso di piovere, le stelle, il silenzio. Adesso mi assisto, no, quel non poter uscire mi stava portando a pensare che una donna è un po' divino, sarebbe stato l'ideale. Oh, l'ideale, l'ideale, l'ideale, oh l'ideale. Come fosse april, passi svelti sull'asfalto, parlano di note ancora da partorir, un gelato in pieno inverno, sembra quasi come fosse april. Ha smesso di piovere, le stelle, il silenzio, adesso mi assisto. No, quel non poter uscire mi stava portando a pensare che una donna è un po' divino, sarebbe stato l'ideale, oh l'ideale.